Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Città del Capo. Siamo ritornati dopo ben 3 settimane di assenza. Noi di 451 frammenti sonori avevamo avvertito comunque nell'ultima puntata speciale condotta insieme al Buon Jerry e anche a DJ Tetro, puntata sugli anni 80, sulla wave e su quello che poi è avvenuto anche nella dimensione no wave newyorkese, puntata particolare che chiaramente abbiamo inserito nel nostro blog, che ve lo ricordiamo, 451frammentisonori.noblogs.org, dove potrete ovviamente riascoltarlo, anche addirittura scaricarla, la puntata speciale che è andata in onda ben 3 settimane fa. Abbiamo saltato ben 3 puntate, purtroppo per varie questioni, in primo luogo le festività il 25 aprile e il 1 maggio, e siamo rientrati oggi 8 maggio. La comunicazione era già stata inserita anche nel nostro blog e stasera ci sarò però soltanto io a condurre questa puntata di 451 frammenti sonori, e il buon Max Macchia rientrerà invece in diretta la prossima settimana, alternandoci dunque alla conduzione. Mancherò io domenica prossima. E stasera, dato che in queste 3 settimane sono successe un po' di cose, in primo luogo la dimensione del 1 maggio, che è festa del lavoro, e con conseguenti iniziative di vario tipo in tutta Italia, e soprattutto lo sciopero generale che è stato effettuato venerdì scorso, che comunque ha coinvolto una bella fetta di lavoratori, di non lavoratori e di precari. E su questa materia stasera, in maniera un po' provocatoria, l'idea di 451 frammenti sonori è costruire un percorso sonoro che possa rappresentare, ovviamente in base a una dimensione espressiva che riguarda la mia individuale persona, la dimensione sonora del lavoro e del non lavoro. Chiaramente sul piano ideologico la nostra società è costruita su questa idea fondante, su questa struttura sociale permeata e costruita sull'idea di lavoro. Lavoro quasi come valore fondamentale, d'altronde presente anche nella Costituzione, pompato da tutte le forze politiche istituzionali, e qui ovviamente stiamo anche dentro il bombardamento mediatico che attraversa chiaramente anche questa radio, dei vari candidati all'elezione comunale di Bologna. Il lavoro è una dimensione che viene spesso affrontata anche in questi ultimi anni, soprattutto dopo la crisi, la cosiddetta crisi economica ormai passata, ma è ancora presente nelle varie dimensioni produttive bolognesi e della provincia di Bologna, e il lavoro che appunto è sempre stato portato ai massimi livelli. Noi come posizione chiaramente radiofonica abbiamo sempre polemizzato sull'idea del lavoro, e il non lavoro, opposizione politica che certamente non ci inventiamo noi, ma fa parte di tutta un'area, un movimento politico ancora presente, seppur estremamente marginale, direi tra virgolette purtroppo, abbiamo pensato appunto di costruire questa dicotomia tra lavoro e non lavoro attraverso una dimensione sonora, e costruiremo un percorso nella prima parte che si concentrerà su una rappresentazione sonora del lavoro, individuato ovviamente come lavoro costretto, come lavoro comunque anche in una certa maniera meccanico, alienato e alienante, distruttivo anche nelle forme più espressive, nella liberazione, nella vitalità di ogni soggetto umano, e anche come forma appunto di estrema dimensione di costrizione nei confronti dei soggetti che anche senza lavoro non hanno certamente la dimensione del non lavoro come tempo e spazio liberato dove potersi esprimere, ma come tempo che viene comunque condizionato dalla ricerca del lavoro per la sopravvivenza ovviamente economica e sociale di ogni individuo. E qua si innesta ovviamente tutta la dinamica della precarietà, della disoccupazione. Ma non voglio fare un comizio politico rispetto a questo, rientreremo un po' sulla materia attraverso il percorso sonoro, non è costume e metodo di 451 frammenti sonori soffermarsi troppo su questo tipo di impostazione radiofonica, e attraverso il percorso sonoro che svilupperemo nella prima parte, il concetto della macchinacità, della ripetitività e dell'allenazione viene ovviamente rappresentato da varie formazioni. In primo luogo ho voluto iniziare con una formazione che ha attraversato spesso 451 i frammenti sonori. Si tratta dei Matmos, col loro disco di esordio omonimo del 1997, formazione nata a San Francisco nella metà degli anni 90, muovendosi in un ambito di elettronica piuttosto eclettica tra ambient, techno e anche glitch per alcuni elementi, con una forte giocosità ma anche con elementi di ripetitività, di sequenzialità tipica anche di una certa techno più sperimentale, riportata ovviamente in una dimensione meccanica che rappresenta uno degli elementi che connota il lavoro nelle forme più salariate, nelle forme tra virgolette più alienate. Apriamo dunque con Matmos, 1997, disco omonimo, splendido lavoro che apre la strada a una produzione musicale che arriva fino a questi ultimi anni, un disco uscito per la Vague Terrain proprio in apertura del percorso produttivo dei Matmos. Dunque apriamo Lavoro, non lavoro, Matmos. siamo ritornati in diretta dopo questo vero e proprio martellamento sonoro, prima aperto attraverso i Matmos e che abbiamo collegato con la grandissima formazione dei Pansonic, da questo splendido altro album costruito e realizzato nel 2004, Chesto, costruito in ben 4 CD, una vera e propria concept opera di questa formazione finlandese che ormai si è ritagliato uno spazio fondamentale nella musica degli anni 90 e degli anni 0, ancora tuttora prolifica dal punto di vista musicale, anche se gli ultimissimi lavori non sono brillanti quanto quelli realizzati nei primi anni 0. Formazione comunque che si muove in questa techno martellante, estremamente sperimentale, che arriva anche a forme di rumorismo brutista, estremamente dura, estremamente graffiante, che rappresenta perfettamente anche una certa idea di lavoro alienato, di lavoro claustrofobico, e quasi sembra rappresentare, attraverso il brano che abbiamo selezionato dal primo CD di questo di questi quattro lavori costruiti e assemblati dentro Chesto, sembra appunto rappresentare la caoticità e quasi la ripetitività di una città che si muove, una città delle più popolose, una delle metropoli che potrebbe essere sia quelle americane, inglesi, italiane, quelle che volete voi, diciamo le metropoli occidentali, dove i ritmi anche di spostamento e di vita della stessa città sono costruite su ritmi e modalità tipiche della produzione, dunque anche del lavoro. L'alienazione è rappresentata anche attraverso questo suono martellante, claustrofobico, rappresentato molto bene in questo album dai Pansonic. E rimanendo chiaramente ancora in tema scuro, piuttosto opprimente, legato appunto alla dinamica del lavoro, entriamo a scoprire, a riscoprire dopo un po' di tempo, una formazione che ha attraversato, penso una volta, forse al massimo due, 451, formazione storica della musica industriale, formazione che sicuramente è stata tra le progettualità più eclettiche ed interessanti nell'ambito della musica industriale tra gli anni 80 e parte proprio molto relativa dei primi anni 90. Le produzioni più importanti si sono verificate tra il 1980 e l'88. Si tratta dei Dom che andiamo a pescare in un album che è stato rieditato, riassemblato nel 1992, esattamente 3 and 4, registrazioni del 1981 e 82 che raccolgono un po' di materiali anche inediti di questa formazione che ha chiuso i battenti all'inizio degli anni 90. Ci andiamo ad ascoltare anche questa versione, che può essere inglobata all'interno dell'idea del lavoro, oscurità, alienazione e in parte anche ripetitività, in una dimensione anche sonora strana, dove si percepiscono delle voci un po' distanti, degli echi quasi di umanità che cercano di emergere in questo quacervo invece di autodistruzione umana e soprattutto creativa e vitale. Dom da 3 and 4. Thank you. Thank you. Siamo rientrati in diretta, abbiamo fatto anche in questo caso un mix tra la formazione dei Dom con i grandi Affler Trio, formazione della musica industriale anni 80 di quel di Sheffield, formazione dunque che usciva da quel quacervo assolutamente fondamentale della musica industriale che è stata appunto Sheffield, nello Yorkshire in Inghilterra, dove la rappresentazione chiaramente di tutta la scena industriale raggiungeva sicuramente i massimi livelli. Formazione questa che all'interno dell'industriale si è mossa sempre in un territorio un po' differente, muovendosi su dei tappeti sonori con dei bordoni scuri frequenziali come questo che abbiamo appena ascoltato e anche dimensioni più aperte alle contaminazioni dell'elettronica, all'ambient più scura, anche a contaminazioni con una certa attitudine legata anche a una certa contemporanea, forzando un po' i termini. Formazione che rappresenta sicuramente bene anche l'oscurità e l'alienazione, la dimensione umana rapportata ovviamente a tutta la dimensione industriale che veniva rappresentata da una città appunto fondata sull'industria come Sheffield, e in questo ovviamente non poteva mancare tutto l'ambito connesso all'industriale per rappresentare in maniera sonica l'idea del lavoro. E gli Affler Trio in questo splendido disco Walk Gently Through the Gates of Joy, che è stato rieditato nel 1994 dalla Touch, ma in realtà sono registrazioni realizzate in Germania nel 1982, rappresentano sicuramente perfettamente tutta una dimensione umana rappresentata nella meccanicità dell'industria. Questo lo ritroveremo soprattutto invece nel prossimo lavoro, che sembra rappresentare perfettamente la dimensione delle macchine dentro una fabbrica. E questa è una formazione invece che proviene dal Belgio, costituita nel 1990 da Gert Feitons e Timo van Luyck, formazione che si è mossa su una progettualità audio-video, costruendosi in maniera assolutamente quasi autodidatta vari strumenti elettronici, analogici e anche in alcuni casi acustici per rappresentare un suono estremamente innovativo e anche molto originale nella dimensione sonora che volevano rappresentare questa formazione, che è Noisemakers Fives, che abbiamo già inserito in una puntata precedente, una formazione che abbiamo riscoperto nei meandri di quelle dimensioni semi clandestine di una certa musica anni 90, che riprendeva una certa industriale, mantenendo dunque un filo diretto storico rispetto a quella dimensione e quell'esperienza musicale, ma anche per certi versi sociale, espressiva, rappresentandola ovviamente all'interno della novità rappresentata dal digitale degli anni 90, però in una dialettica sicuramente feconda e appunto innovativa. Il disco che abbiamo selezionato è Cruelty as a Human Heart, e il brano in particolare è quello di apertura che sembra veramente ricordare la dimensione della fabbrica in tutta la sua sonorità, in tutta la sua imperiosità e anche dimensione scura e quasi una dimensione sonora che trasmette paura, paura, incombenza di qualcosa di più grande che possa schiacciare proprio la persona e l'ascoltatore. In questo rappresentata perfettamente quasi l'idea del tornio e la rappresentazione sonora del tornio di una fabbrica, di una catena di montaggio. Ci andiamo ad ascoltare dunque questo lavoro uscito nel 1996, formazione Cruelty as Human Heart, il disco, formazione Noisemakers Fives, formazione belga, ricordiamo ancora, poco conosciuta ma da riscoprire anche perché hanno realizzato varie cassette negli anni 90, ancora quando le cassette stavano incominciando a scomparire, ma si possono trovare trovare ovviamente delle riproduzioni in formato digitale, dunque materiali abbastanza facilmente reperibili, e andateveli a scovare, perché i lavori realizzati oltretutto fino al 2005 di questo progetto è assolutamente da seguire anche negli ultimi dischi. Ma noi abbiamo selezionato questo lavoro perché sembrava più attinente sicuramente come suono alla puntata di stasera. Ovviamente subito dopo il brano scatterà il GR di Radio Popolare Network e noi rientreremo ovviamente in diretta dopo il GR intorno alla 00:50 con questa puntata Lavoro, non lavoro. Cosa scegliete?